alle 9.30 giovedì, sempre 9.30 di sera. Ecco, oggi come sempre una puntata abbastanza densa, inizieremo con il nucleare, come avete potuto capire, facciamo un passaggio su quelle che sono state le nuove argomentazioni del nostro governo, poi parleremo della manifestazione No War che c'è stata a Napoli, parleremo insieme a i nostri amici e compagni del rialzo che dovranno arrivare da qui a poco, dell'occupazione che c'è stata dei palazzi dell'Aterp a Cosenza Vecchia, appunto nel centro storico, e parleremo della Marlane. Stamattina c'è stato il processo, il rinvio del processo che guardava appunto al terribile caso di almeno un centinaio di morti dei lavoratori che lavoravano alla Marlane. E poi parleremo del collegato caso ThyssenKrupp, che ha fatto molto scalpore in questi giorni. Per adesso vi lasciamo con un altro pezzaccio. Vai Peppe, facci sognare, Peppe Lange, il grande Peppe Lange. Solo disperati e sedi stanchi, non possiamo andare avanti.